24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:22 minuti, eccoci per l'ultimo appuntamento settimanale di 24 mattino. Siamo in diretta fino alle 9. Siamo anche su Facebook, così 24 mattino, e su Twitter @24mattino l'account, ma anche ci sono io, se volete, @AlinoMilan. E di che parleremo oggi? Di soldi ai partiti. Si sono votati, avete sentito Bersani al GR, abbiamo votato, avevano detto dimezzamento ai partiti, di soldi ai partiti, abbiamo fatto il dimezzamento di soldi ai partiti. Non è vero, perché non è proprio il dimezzamento è solo quest'anno, dall'anno prossimo no, però va bene così. Ne parleremo, avremo anche un ospite, un sindaco del Movimento 5 Stelle, di Beppe Grillo, è il sindaco di Mira, che sarà nostro ospite alle 8:20, tutto questo più avanti. Ora andiamo a capire cosa ci propongono i giornali in edicola. Questo venerdì 25 maggio, qualche titolo d'apertura. Il Sole 24 Ore apre sul nuovo presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, all'Assemblea Generale di ieri a Roma. Niente favori, un paese normale, questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera, piano di Monti per i giovani, e per Repubblica, lavoro 8 miliardi per i giovani. Per La Stampa, Unione Europea, bene i conti, ora crescete. Il Messaggero, Monti, 8 miliardi ai giovani. Questi, diciamo, i titoli dei quotidiani principali, come vedete, dedicati soprattutto a questo annuncio del Premier Mario Monti. Ma vediamo gli altri titoli, e lo vediamo magari andando già a scoprire qualche notizia che trovate all'interno. Per esempio, oggi il Fatto Quotidiano apre su cosa? Adriano Celentano. Ah, Adriano Celentano, sapete che ogni tanto prende carta e penna, il molleggiato, scrive, i suoi giornali preferiti sono il Fatto Quotidiano e talvolta il Corriere della Sera. Caro Monti, i grillini te li troverai in camera da letto. Quello che ha fatto prendere la penna sdegnata Adriano Celentano è la vicenda della discarica a Corcolle, la possibilità di costruire la discarica nei pressi di Villa Adriana, che ha suscitato e sta suscitando anche molte tensioni all'interno del governo, col ministro Ornaghi pronto a dimettersi. Di Adriano Celentano, pagina 3 del Fatto Quotidiano, è uno stupro alla cultura. Quello di Villa Adriana, un coperchio che sta per saltare, scrive Celentano. I tecnici di questo governo, tra chi si oppone, ma non troppo, e quelli del sì, stanno per sganciare l'ennesima bomba ecologica. Sapete, poi lui ogni tanto usa le maiuscole, scrive in maiuscolo. La bomba ecologica è scritto in maiuscolo. Contro ciò che ancora rimane delle bellezze naturali di questo nostro paese, allontanandoci sempre di più dai tempi in cui l'Italia era considerata il giardino d'Europa. E poi se la prende Celentano con chi? Col prefetto Pecoraro, che è colui che ha preso questa decisione. Ma per Adriano Celentano il prefetto Pecoraro è pecoraio. Monti cacci il pecoraio, l'intransigente prefetto pecoraio, se ne frega altamente delle migliaia di proteste arrivate da tutto il mondo per l'allarmante decisione di sfregiare uno dei più grandi patrimoni archeologici del mondo. Lui non demorde, continua a fregarsene, pur consapevole che tutto ciò è un vero e proprio stupro alla cultura e alla storia del nostro paese. I tecnici però hanno garantito. E mi sorge spontanea una domanda, conclude Celentano, se il prefetto pecoraio se ne frega così tanto e di tutti è perché evidentemente la più alta carica del governo, anziché togliergli il mandato per la malsana idea, glielo ha rinnovato? Caro Monti, ancora un paio di questi colpi, alle prossime elezioni i grillini te li ritroverai anche in camera da letto. Così Adriano Celentano. Certo, il tema politico c'è tutto, il ministro Ornaghi ieri ha fatto un blitz per vedere appunto a Corcolle qual è la situazione, ha ribadito il suo secco no, e ora c'è Pecoraro, il prefetto, che fa sapere il Messaggero a pagina 9, è pronto lui a dimettersi, a colpi di dimissioni. Vedremo chi minaccerà in maniera più intensa e chi l'avrà vinta a questo punto. Il commissario ha resistito fino all'ultimo, poi la svolta, ma racconta Mauro Evangelisti che già fino alle 14 di ieri il prefetto Pecoraro era praticamente in via di dimissioni, poi è stato appunto fermato. Sono un servitore dello Stato, ma non voglio creare problemi, così ha detto. Staremo a vedere una vicenda che si concluderà o non si concluderà, e come quella della creazione di una discarica, la discarica che dovrebbe dare respiro a Roma, perché la discarica storica del Malagrotta è piena di rifiuti e si rischia di situazioni stile Napoli di qualche anno fa, e quindi insomma bisogna creare una nuova discarica, ma su questo vedremo come andrà la partita. Poi, prima della pubblicità, ve la devo raccontare dalla prima pagina di Libero. Qual è il colmo dei colmi per le tasse, secondo voi, in questo momento in cui tutti hanno una parola in mente? Il colmo dei colmi delle tasse è scoprire come, Libero dice, abbiamo scoperto che Equitalia non paga le tasse. Ma come? Equitalia non paga, infatti il titolo è così, il colmo, Equitalia non paga le tasse. Franco Bechis ha scoperto una vicenda che riguarda il comune di Roma e alcune sedi di Equitalia, una di Equitalia Centrale e una di Equitalia Sud, che ha diversi sportelli e sedi a Roma. La fortuna di Befera, scrive Franco Bechis, è che gli uomini di Gianni Alemanno, cioè il sindaco, hanno il cuore tenero, un po' di senso delle istituzioni, perché solo per quel cuore e un po' di delicatezza Equitalia non ha ricevuto per la prima volta una cartella esattoriale che l'avrebbe fatta svergognare per il resto dei suoi giorni. L'atto di precetto era ormai pronto e stava per inviarlo l'AMA, vale a dire l'azienda municipalizzata dei rifiuti a Roma. Ecco, proprio di rifiuti si parla. Non uno, ma due destinatari, la sede legale di Equitalia e Equitalia Sud. Perché? Il colmo è questo. Secondo quanto risulta Libero, sia Equitalia Centrale, questo per un cambio di sede, per cui la bolletta è arrivata alla vecchia sede, per cui è stato sistemato, e vabbè, ma soprattutto per la vicenda di Equitalia Sud, non avrebbe pagato 200.000 euro di arretrati di tasse all'azienda municipalizzata dei rifiuti. I mancati pagamenti della tassa sembrano seri. Secondo quanto risulta Libero, la morosità di Equitalia Sud nei confronti dell'AMA ammonta circa 200.000 euro di arretrati. L'ingiunzione di pagamento sarebbe stata più che giustificata. L'AMA avrebbe dovuto chiedere ad Equitalia la riscossione sulle tasse che Equitalia non ha pagato. E se Equitalia Sud avesse fatto orecchie da mercante, sarebbe stato necessario mettere le ganasce fiscali ad Equitalia Sud, perché Equitalia Sud non pagava le tasse che Equitalia Sud dovrebbe riscuotere per conto dell'AMA. Insomma, un pasticcio incredibile, capite? Sarebbe stato grottesco e probabilmente anche inutile, ma gli Alemanno Boys hanno cuore, senso delle istituzioni, perché mandare in questo momento a Equitalia una procedura esattoriale sarebbe stata la condanna della società presieduta da Befera davanti all'opinione pubblica, e dunque con grande pazienza i dirigenti dell'AMA hanno preso contatto coi colleghi al vertice di Equitalia Sud a dire: che dobbiamo fare di questa situazione? 200.000 euro di arretrati, li paghiamo? Non li paghiamo? Dobbiamo mandarvi l'ingiunzione a pagare e poi voi stessi dovete riscuotere da voi stessi? Insomma, il colmo è questo: anche Equitalia evade il fisco, così titola Libero in prima pagina. Eccoci qua alle 7:36 minuti. Allora, ieri il premier Mario Monti ha annunciato che presto ci sarà la riforma del merito. A questa si sente da... io non ero ancora nato, probabilmente si parlava di meritocrazia in Italia. E ancora adesso. E ha annunciato anche: daremo 8 miliardi di fondi europei ai giovani. Destinatari saranno 128.000 beneficiari. Stride tantissimo, ricordate, con la vicenda solo raccontata ieri da Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, la scelta per la vicepresidenza dell'A2A con il curriculum "sono il figlio di tal'altro e tal'altra". Insomma, queste sono le vere riforme. Non avere più bisogno di curriculum del genere. Però insomma, staremo a vedere. Il premier Mario Monti ha annunciato questo: 128.000 beneficiari, più soldi per i giovani, 8 miliardi di euro daremo di fronte a questa catastrofe lavoro per i giovani annunciata anche ieri e denunciata più che altro dal presidente della BCE Mario Draghi, cercheremo di reagire così. Con questo contrasta un po', non nelle parole, ma quando si legge il titolo d'apertura del Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore si concentra sulla relazione ieri di Giorgio Squinzi, il nuovo presidente di Confindustria, niente favori, un paese normale. Ecco, questa parola normale che tra l'altro il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, ha messo nel suo editoriale, ritorno alla normalità. Per esempio sul tema della burocrazia si chiede, Napoletano, com'è possibile che il rilascio di un'autorizzazione sia regolato da una legge statale, da almeno 21 leggi regionali, da circa 8.000 regolamenti comunali troppo spesso diversi uno dall'altro? È possibile, purtroppo, accade in Italia, schiacciata com'è da quella muraglia impenetrabile, stratificatasi nei decenni e mai realmente scalfita, cioè una burocrazia che per soli adempimenti ci costa 45 miliardi in più rispetto ai migliori esempi del resto d'Europa. E che cosa dire del fatto che sempre in Italia l'energia elettrica costa stabilmente da almeno 10 anni il 30% in più rispetto alla media europea, il prezzo del gas naturale ha registrato un progressivo divario che si è acuito negli ultimi anni? Insomma, questi elementi ci costituiscono e restituiscono lo stato di famiglia di un paese dove tanti, troppi fardelli si scaricano quotidianamente sulla sua economia reale. Insomma, il bisogno di un paese normale. Risponde anche a questa normalità, è una domanda che faccio, secondo me sì, ma risponde a questa normalità il tema che ieri il ministro del welfare Elsa Fornero ha lanciato come un sasso nello stagno quando ha detto la riforma del mercato del lavoro, ma forse dovrebbe essere e si auspica che sia applicabile anche agli statali, un tema che noi abbiamo già affrontato, oggi ne parla anche Oscar Giannino alle 9. Licenziamenti pubblici e subito che succede? Il governo si divide. Che cosa ha detto il ministro Elsa Fornero? Mi auguro che qualcosa di simile a quello che abbiamo fatto per i dipendenti privati relativamente alla possibilità di licenziare sia inserito nella delega per i dipendenti pubblici. Per qualcuno si tratta di una cosa normale, cioè perché bisognerebbe discriminare dipendenti privati e dipendenti pubblici? Immagino che i dipendenti pubblici che mi stanno ascoltando dicono che no, che i dipendenti pubblici per il rapporto fiduciario particolare sono scelti per concorso eccetera, e quindi devono essere i panda pubblici, i panda del mercato del lavoro da proteggere, nel senso, in ogni caso questo ha suscitato il dibattito. Devo dire che L'Unità lo mette in prima pagina, Monti promette, Fornero licenzia. Eccolo qui, vedete proprio il doppio, il contrasto, no? Monti, assumeremo i giovani, e Fornero invece che a fronte della rassicurazione del Premier ai giovani, la ministra gela gli statali, licenziamenti anche nella pubblica amministrazione. Ma devo dire che il titolo più straordinario, sui titoli il manifesto può davvero fare scuola da decenni, c'è una foto di Elsa Fornero e il titolo di prima pagina è La brunetta. Ricorda, è una brunetta di capelli, ma ricorda chiaramente il Renato Brunetta, no? La brunetta, davvero è epocale, straordinario nell'efficacia questo titolo. E poi a pagina 3, licenziare pure gli statali, anche Libero lo mette a pagina 9, licenziamo gli statali, ed è rissa tra ministri, è rissa verbale, nel senso che c'è stato un gelido comunicato del ministro della funzione pubblica Patroni Griffi di una riga e mezza. Il comunicato è questo, praticamente: il tema è già nel testo predisposto per la legge delega. A questo punto ritengo opportuno approfondire alcuni aspetti tecnici in Consiglio dei Ministri. Al di là del gelido comunicato, vuol dire che insomma la botta è stata accusata e uno a uno palla al centro, si direbbe in termini calcistici. E staremo a vedere come va avanti questo, come si sviluppa questo tema che il ministro Elsa Fornero ha rilanciato, perché è già quando c'era stata la riforma del mercato del lavoro era un tema che si era proposto. Visto che ho usato un termine calcistico, guardate, io non ci credevo. Chi mi segue anche su Twitter, lo ripeto, @AlinoMilan, mi trovate, sa che ogni tanto mi diletto, mi diverto anche a lanciare qualche tweet sul calcio, sul grande, amato e unica squadra al mondo da amare, cioè il Milan, e oltre alla Pro Sesto ovviamente, ma la Pro Sesto viene prima di tutto. E io dico, bisogna vendere Ibrahimovic, dice, adesso è impazzito, ha iniziato a parlare di calcio, bisogna vendere Ibrahimovic per fare una squadra per quel che riguarda il Milan. No, lo dico perché Ibrahimovic ieri pare sia stato citato da Berlusconi, ma per la politica. Allora, sapete che il Popolo della Libertà è in fase di ristrutturazione. Oggi dovrebbe essere annunciata questa grande epocale rivoluzione del Popolo della Libertà, che pare si riduca poi alla proposta, così dicono almeno il Corriere della Sera, Libero, tutti, alla proposta di fare una federazione per l'Italia, di rilanciare questa grande novità politica, cioè una riforma dello Stato, una costituente per rilanciare il semipresidenzialismo alla francese, con l'elezione diretta del capo dello Stato. Una cosa che, ripeto, a me ha già annoiato solo nel raccontarvela. Ma perché dico Ibrahimovic, il calcio, eccetera? Perché Berlusconi pare che abbia detto questo. Libero. Per rilanciare il Popolo della Libertà ci vorrebbe un Ibrahimovic, ma non lo abbiamo. E a me è crollato un po' tutto, sia per il paragone, sia perché vuol dire a questo punto che non, il Milan non vende Ibrahimovic, che è la cosa poi che mi interessava di più. Ci vuole un Ibra, il Cav ha la squadra ma non una star, ci vorrebbe un Ibra. Silvio pensa a rifondare il partito, lo scrive Salvatore Dama su Libero, ma non sa chi affidarlo. E oggi con Alfano presenta questa sorpresa, la sorpresa, il presidenzialismo alla francese e il sistema elettorale con doppio turno. Ecco, questo è il dibattito che animerà sicuramente tutti i bar e i ristoranti di questo weekend di tutti noi italiani. Noi dalle 8.30 parleremo allora di questa decisione, la legge che è stata votata ieri in Parlamento per dimezzare, o meglio si dice questa parola, dimezzare il finanziamento pubblico ai partiti. In realtà, cari ascoltatori, si dimezzano solo per quest'anno, questo è il titolo di pagina 12 del Corriere, quindi devo smentire me stesso che ieri ero stato troppo ottimista a dire che si dimezzano i soldi ai partiti. In realtà, solo per quest'anno verranno dimezzati i soldi e tra l'altro circa 160 milioni di euro destinati alle casse dei partiti resteranno invece in quelle del Ministero del Tesoro, col vincolo di essere spesi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. E questa è una buonissima notizia, finalmente un qualcosa, se vero, che è confermato, che la politica può fare, cioè parte dei soldi destinati ai partiti, 160 milioni, verranno destinati al terremoto, nonché anche alle altre calamità purché avvenute dopo il 1 gennaio 2009, come le alluvioni delle Cinque Terre o di Messina. Quindi verranno destinati lì, buona cosa, però i risparmi per lo Stato saranno variabili negli anni, ecco il dimezzamento farlocco. 91 milioni quest'anno, è vero, dimezzamento, ma nel 2013 solo 69 milioni verranno tagliati, nel 2014 58 milioni, nel 2015 50 milioni a regime, dunque non il 50%, perché il dimezzamento vero e proprio vale solo per quest'anno, mentre per il futuro i risparmi saranno inferiori al 50%, anche perché si alza il vantaggio fiscale per le donazioni, cioè soldi donati al partito, detrazione fiscale aumentata, e quindi non è il risparmio del 50%, il dimezzamento come cercano di spacciare. Però certo c'è un taglio ai fondi dei partiti, ci sono partiti che tuonano. IDV voleva la cancellazione definitiva, la Lega, avremo un ospite della Lega, proprio l'abbiamo chiamato perché la Lega, che proprio in questo momento era nel ciclone delle polemiche per l'utilizzo di un certo molto ortodosso dei fondi destinati ai partiti, chiedeva invece proprio la cancellazione totale dei fondi agli stessi partiti. Noi avremo ospite anche un sindaco del Movimento 5 Stelle, e il Movimento 5 Stelle Parma è un laboratorio di idee ma anche di conflitti. Questa volta il conflitto è deflagrato su un nome che a Parma starebbero per scegliere per fare il direttore generale del comune. Si tratta di una persona che però è stata espulsa dal Movimento 5 Stelle, da Beppe Grillo, senza troppe storie, dalla notte al giorno. Si tratta di Valentino Tavolazzi, 62 anni, uno dei motori del Movimento 5 Stelle a Ferrara, consigliere comunale. Qualche mese fa Grillo l'ha espulso con l'accusa di aver organizzato a Rimini un meeting che puntava a rifondare il soggetto grillino, ridimensionando il ruolo dello stesso fondatore. Per questo è stato espulso dal Movimento 5 Stelle, questo Tavolazzi. Solo che Valentino Tavolazzi, 62 anni, è uno dei candidati ed è uno, si vocifera, potrebbe essere lui scelto dal neo sindaco di Parma Pizzarotti per fare il direttore generale del comune. Tanto che Beppe Grillo ha dovuto scrivere un post sul suo blog dicendo: invitiamo tutti a trovare una persona con esperienza per la carica a Parma di direttore generale, incensurato, non legato ai partiti. E poi Grillo ha scritto proprio di Tavolazzi: ho saputo dell'autocandidatura di Tavolazzi, a cui è stato inibito l'uso del simbolo del movimento, una scelta impossibile, incompatibile, ingestibile politicamente. Che succede? Stanno litigando? Movimento 5 Stelle, siete sindaci da 3 giorni a Parma, state litigando sul nome? È una domanda, tanto che Valentino Tavolazzi, intervistato dal Quotidiano Nazionale, a pagina 3, dice: c'è un gruppo oscuro di potere, non è Beppe che scrive, non è Beppe Grillo, io con lui non ho mai avuto problemi, e tira in ballo ancora il guru di Beppe Grillo, Gianroberto Casaleggio, che anche noi abbiamo provato a intervistare, abbiamo fatto una timida richiesta, ma non rilascia interviste a nessuno. Pare che sia questo guru che decida tutto, Gianroberto Casaleggio, a cui oggi tra l'altro Filippo Facci, anche su Libero, dedica in prima pagina il suo appunto. Leggete bene, nel 2018 il mondo sarà diviso in 2 blocchi, a ovest con internet, a est con una dittatura orwelliana. Nel 2020 ci sarà la terza guerra mondiale che spazzerà via San Pietro e Notre Dame. Si useranno armi batteriologiche, il clima sarà stravolto, il mare si alzerà di 12 metri, la popolazione si ridurrà a 1 miliardo, finirà il petrolio. Nel 2040 trionferà la rete democratica, nel 2043 gli ambientalisti divideranno il pianeta in migliaia di comunità governate dalla rete. Nel 2047 ciascuno avrà la sua identità elettronica in un network sociale. Nel 2050 un brain trust collettivo risolverà ogni problema. Nel 2054 ci saranno le prime elezioni mondiali in rete. Ora, prima di chiamare la Neuro, sappiate che questo è il futuro previsto da Gian Andrea Casaleggio. Come si chiama poi? Gian Roberto? Gian Andrea? Vabbè, Casaleggio. In un video da lui prodotto nel 2008 in rete, Casaleggio, un tizio che sembra Angelo Branduardi ingrassato, è il guru e il socio di Beppe Grillo che gestisce il suo blog. Casaleggio è Grillo. Non abbiamo commenti da fare, vi stiamo solo dando delle informazioni. Questo Filippo Facci oggi su Libero, in prima pagina. Comunque, stanno litigando oppure no? E poi soprattutto la domanda è: Montezemolo scende o no in politica? Questo non si sa. Oggi Repubblica scrive: eccolo il piano di Montezemolo, ve lo anticipiamo, con Roberto Mania, 2 pagine, una lista per sostituire Berlusconi. Italia Futura sta selezionando candidati in tutta Italia. Non è detto che sia Montezemolo a guidare la lista, può darsi che sia a guidarla un giovane. Il graffiante Iena Riccardo Barenghi sulla Stampa, pagina 3, Montezemolo è quasi pronto a entrare in politica, sta già scegliendo il vestito più adatto. Così Iena. Che dire, c'è ancora tanto, ma poco spazio, meno di un minuto. Una segnalazione: trovate tantissimi articoli sul fatto che il Vaticano abbia con una durezza imprevista, imprevedibile e clamorosa cacciato e rescisso il contratto con il banchiere Gotti Tedeschi a capo dello IOR, pago per la legge antiriciclaggio. Tutto si intreccia con i Vatican Leaks, le anche accuse. È stato accusato anche, il Corriere scrive in maniera impropria, di essere il corvo, di aver mandato fuori le lettere che poi hanno suscitato polemiche, anche hanno creato dei libri. Ettore Gotti Tedeschi, alla Stampa, il retroscena di Andrea Tornielli, dice: preferisco non parlare, direi solo brutte parole in questo momento. Insomma, non c'è mai tregua in Vaticano. 24 mattino. Siamo qui, ben ritrovati da Alessandro Milan, le 8:22. Allora, noi più avanti parleremo di taglio, finanziamenti, partiti, il dimezzamento dei fondi pubblici ai partiti. Vogliamo iniziare a fare una chiacchierata politica però con chi rappresenta quel Movimento 5 Stelle che i fondi dei pubblici non li vuole. È un sindaco, un neo sindaco, Alvise Maniero, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Sindaco di Mira, provincia di Venezia. Quanti abitanti fa Mira, più o meno? Sono quasi 40.000, 39.000 rotti. Ci tengo però a precisare che io non rappresento il Movimento 5 Stelle, rappresento solo, parlo a nome di un gruppo qui, di attivisti, ma non c'è nessun rappresentante del Movimento 5 Stelle in toto. In che senso non c'è nessun rappresentante del Movimento 5 Stelle? Nel senso che nessun individuo può parlare con titolo a nome del Movimento 5 Stelle. Lei sa che ciascuno di noi così unità territoriali, non so come definirle, gruppetti spontanei cittadini. I meetup, che si riuniscono, le liste civiche. Meetup, riunioni, si ritrovano, individuano i problemi del territorio, ci ragionano, cercano di trovare delle soluzioni e si organizzano in maniera completamente gerarchica, non c'è un capo. Sì, però voglio dire, lei è stato... No. C'è questo cappello sopra, no? Il Movimento 5 Stelle non lo rinnegherà, no? Voglio sperare. No, anzi, sono dei principi validissimi, siamo fieri di portarli avanti. In ogni caso, 26 anni, sì. Anni sindaco, studente di scienze politiche, si sta laureando, quindi laureando, non è ancora laureato, leggo dal Corriere, non possiede neanche l'auto. No, purtroppo. Va bene così. Non ha ancora presentato una dichiarazione dei redditi ed è stato votato, ha vinto il ballottaggio e insomma è a capo del comune di Mira ora. Quanto è costata la campagna elettorale? Perché sa, Pizzarotti, abbiamo scoperto, a Parma ha pagato 6.000 euro, i partiti parlano tanto di finanziamento. Quanto è costata la campagna elettorale per diventare sindaco? Approssimativamente 1.500-2.000, ma in realtà vede, tutti questi costi sono stati più che altro per i due palchi che abbiamo allestito per quando è venuto Beppe ad aiutarci, insomma, a fare un po' di pubblicità, a presentarci la nostra campagna. 1.500-2.000 euro, questo più o meno. Sì, per le strade in realtà non è stato quasi niente. Quasi niente. Cioè, e come si fa politica allora? Qual è il ruolo che voi rivendicate per quella che non definite essere una antipolitica, ma la nuova politica? Parlare con la gente, farsi conoscere? Sì, in realtà è qualcosa di molto semplice, di molto poco mediatico, nel senso che noi ci muoviamo da normali cittadini in mezzo alla gente, ascoltiamo le loro idee, cerchiamo di organizzarci, di ritrovarci in riunioni, di affrontare i problemi, di definire delle strategie per affrontarli. Così facendo impariamo gli strumenti che sono a disposizione, quindi iniziamo a masticare elementari strumenti di urbanistica, elementari strumenti di economia, approcciamo i bilanci. E è semplicemente un corso di educazione civica vissuto in prima persona. Però lei ci vuol dire, voglio dire, che i partiti, cioè perché la gente votare? Perché per esempio prima del ballottaggio credo che il rappresentante del Partito Democratico aveva il 45% più o meno al primo turno, cioè non è riuscito a ottenere quel 5% e lei invece era al 16%, quindi sembrava spacciato al primo turno. Cioè perché la gente vota uno come lei e non vota più il partito tradizionale? Evidentemente guardare solo quei numeri non dà una rappresentazione completa della situazione, della realtà, e forse questo, diciamo, questo errore di valutazione è stato proprio uno di quelli che ha portato le precedenti amministrazioni a commettere qualche errore. A noi non interessa che tessera un cittadino ha in tasca o da dove proviene politicamente, a noi interessa la qualità delle sue idee, cioè se la sua posizione affronta un problema e presenta una soluzione, quella è un'idea preziosissima, e quello è l'unico ragionamento da fare. Non c'è più tempo né risorse da sprecare in ideologie e schieramenti. Quindi non c'è neanche l'idea di dire maggioranza, opposizione, cioè ci sono le idee, se sono valide si votano, se non sono valide non si votano, questa è la discriminante. Ah sì, lo può chiedere in realtà qualunque cittadino qui a Mira e sicuramente anche fuori Mira. Il primo interesse è affrontare i durissimi problemi che abbiamo di fronte come cittadini italiani e poi insomma appunto questi discorsi di contrapposizione non rispondono a interessi del cittadino ma evidentemente a qualcun altro, a qualche classe molto più ristretta. Senta, le devo chiedere questo perché la gente, è la domanda che si fanno tutti, ha votato Beppe Grillo secondo lei o ha votato voi? Perché adesso anche a Parma ci sono un po' di tensioni sulla nomina del direttore generale. Beppe Grillo ha detto non potete nominare una persona che io espulso, vabbè, ma queste sono cose di Parma che a voi non interessano. Cioè chi decide adesso? Siete lei con la sua squadra di giunta oppure c'è Beppe Grillo e che vi guarda, vi consiglia? Ci faccia capire. No, Beppe Grillo è stato fantastico come cortesia, come energia e ci ha dato una grande pubblicità per cui siamo tutti estremamente grati, però no, Beppe Grillo non c'entra assolutamente nulla con le decisioni che prendiamo qui, lui ha le due funzioni, quella di pubblicità e diciamo di garante minimo, nel senso che impedisce che questo simbolo, Movimento 5 Stelle, che deve essere un marchio di garanzia, venga utilizzato da chi non rispetta delle condizioni veramente elementari di base, che lei come sa sono fondamentali, tipo avere la fedina penale pulita, diciamo. Le decisioni non le prende lui, le decisioni le prendiamo noi nella maniera più ampia possibile, dico possibile perché purtroppo Mira poi, lei lo sa Mari, non è conosciuta ma ha una situazione particolare adesso, se noi non approviamo il bilancio preventivo che ci ha lasciato in sospeso dalla precedente amministrazione in pochi giorni cade il comune, quindi non abbiamo il tempo di consultare tutti adesso, però siamo perlomeno 30 persone per dire che si riuniscono e ragionano di questa e cosa e ci rivendicate questa autonomia, cioè Beppe Grillo ha messo a disposizione il suo marchio, se si vuole, la sua personalità, eccetera, però adesso siete voi che avete in mano il comune e dovete autonomamente decidere. A proposito di bilancio, infatti ieri quando l'abbiamo chiamata so che era rinchiuso nelle stanze a studiare il bilancio, c'è questa cosa dell'IMU che c'è, che c'è per tutti gli italiani, c'è un sindaco, un altro sindaco del Movimento 5 Stelle, Castiglion di Sarego, che ha detto forse dobbiamo aumentare le tasse, ecco, voi questa cosa dell'IMU per esempio, che fate? Siete costretti a aumentare un po' le tasse magari? L'IMU è una cosa devastante, nel senso che indipendentemente dalla nostra volontà lo Stato ci mette in una condizione in cui ci chiede dei soldi semplicemente e quindi dobbiamo trovare la maniera di reperirli. La direzione che abbiamo preso è stata quella di tutelare il più possibile le prime case e le situazioni più delicate, quindi abbiamo optato per una formula diciamo un po' distributiva della pressione inevitabile insomma, che ci sta per arrivare, in maniera tale che rispetto all'ICI che c'era precedentemente praticamente non si percepisca una differenza, un aggravio. Però è indubbio che per tutte le famiglie, per tutti noi sarà un brutto colpo. Ma cosa vuol dire? Cioè c'è anche l'ipotesi, state studiando anche di aumentare qualche tassa comunale per cercare di far fronte a questo? No, anzi, no, in realtà ecco, dalla bozza assolutamente ufficiosa, non mai approvata la giunta precedente, ma dalla bozza che c'era prima di bilancio noi abbiamo tolto diverse cose e la prima cosa che abbiamo fatto è stato quello di individuare come comprimere le spese, come comprimere alcuni stipendi. Perfetto. Partire dal mio. Leggo, ecco, quant'è lo stipendio del sindaco di Mira? Quant'è il suo stipendio? Quello precedente mi pareva 3.600. Sarà uguale, immagino. Sarà uguale anche adesso, 3.600, no? Beh, viene determinato con un voto, per cui nel consiglio lei che saremo lo cambieremo, però sì, lei sa che noi per dire un eletto al consiglio, per dire regionale, del Movimento 5 Stelle non percepisce più di 2.500 euro, il resto sicuramente andrà. Io non prenderò di più. Quindi diciamo 2.500 euro più o meno si metterà, diciamo indicativamente. Sì, ma guardi, decide il gruppo, io non... Decide il gruppo, bellissima questa cosa, deciderà il gruppo. Leggo dal suo blog per concludere il primo post, non pretendiamo certo di poter offrire la verità, ma domenica e lunedì molte persone hanno scelto la pillola rossa, ora la tana del bianconiglio la dobbiamo esplorare tutti fino in fondo. Cos'è Matrix? Che film è questo? Sì, infatti questo è il primo post che lei ha messo. Era proprio un estratto da Matrix. Sì, questa è un po' una metafora elementare, ma che abbiamo scelto, perché in realtà il nostro primo obiettivo è quello di sfondare un po' le porte così fumose che separano l'amministrazione dal cittadino. E in questi giorni ci stiamo dando dentro proprio per entrare a regime e poter attrezzare degli strumenti che permettano questo. La prima cosa sarà la telecamera del Consiglio Comunale, che non è mai stata possibile, da anni l'abbiamo richiesta come cittadini in tutte le maniere, e finalmente nel primo Consiglio Comunale la metteremo noi e risolveremo la cosa. La prima cosa che farete, senta, io intanto la ringrazio, tra poco la pubblicità del Meri e il Meteo, avrò due ospiti parlamentari, quindi non so, da Mira scenderò a Roma, ci sarà forse anche questo contrasto, parleremo di finanziamento ai partiti. Se vuole stare ancora buona con fortuna. Noi, buona fortuna, va bene, la ringrazio, se vuole stare con noi è ben accetto, e se no se la lascio allo studio del bilancio, Alvise Maniero, grazie, sì, devo andare a studiare, grazie Alvise Maniero, sindaco del Movimento 5 Stelle di Mira, in provincia di Venezia, ci fermiamo e appunto finanziamento ai partiti, se lo sono dimezzato, ma sarà vero? 24 mattino. Eccoci allora, alle 8:39 minuti, dopo aver avuto il sindaco di Mira in provincia di Venezia, il Movimento 5 Stelle, che ci ha fatto sapere che la campagna elettorale lì è costata 1.500-2.000 euro su per giù per l'allestimento di un paio di palchi. Andiamo, piombiamo invece nel Parlamento e vogliamo capire se allora questi rimborsi ai partiti sono stati dimezzati, se è vero così, se sono stati non proprio dimezzati a partire dall'anno prossimo. C'erano forze politiche che li volevano cancellare del tutto, una di queste insieme all'Italia dei Valori è la Lega. Saluto il senatore Fabio Rizzi della Lega, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Saluto anche Pierluigi Mantini, che è invece onorevole, quindi siamo alla Camera dell'UDC. Buongiorno Mantini. Buongiorno a voi. È identificato come colui che ha fatto questo emendamento, una norma anti-grillo, ma poi sono identificato male. Identificato male. Alla stampa idee confuse. Vabbè, ma sì, ma tra l'altro poi emendamento anti-grillo, il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che non li vogliono i rimborsi elettorali, quindi fare un emendamento anti-grillo già è un errore nel titolo, diciamo. Ecco, bravo, se vuole. Comunque però, senatore Rizzi, vorrei partire da lei, la Lega, perché la Lega adesso dice cancelliamo i finanziamenti. Capisce che le ironie si sprecano un po' proprio dal partito che in maniera meno ortodosso possibile, è uscito dai giornali, ha usato il finanziamento ai partiti, secondo le inchieste da parte di alcuni, ora chiede che vengano tolti questi finanziamenti. Ma in realtà è proprio per questo, nel senso, noi siamo sempre stati d'accordo con una grandissima riduzione del finanziamento pubblico dei partiti, e addirittura in maniera un po' provocatoria adesso fino alla cancellazione del tutto, proprio per fugare ogni dubbio per quello che ci riguarda. Abbiamo avuto oggettivamente dei grossi problemi interni a causa di qualche scellerato esponente del nostro movimento che ha sprecato i soldi pubblici, ma soprattutto i soldi nostri, i soldi dei militanti, i soldi della raccolta delle tessere, i soldi delle contribuzioni dei parlamentari, per cui noi non abbiamo nessunissima paura, non abbiamo mai attinto ai finanziamenti per la nostra attività politica, ci siamo sempre automantenuti. Tutte le nostre sedi e sezioni sul territorio si automantengono con i versamenti volontari dei militanti, per cui che ci sia o che non ci sia il finanziamento pubblico dei partiti, a noi veramente lo volevate cancellare. No, ma tra l'altro infatti la questione è questa, e vorrei anche coinvolgere l'onorevole Mantini, cioè capisce Mantini, qua stiamo discutendo sempre se dimezzare, non dimezzare, quando poco fa il sindaco di Mira, lei non l'avrà ascoltato, ci ha detto a noi è costato 1.500 euro la campagna per diventare sindaco, e poi la gente vorrebbe toglierli questi finanziamenti pubblico ai partiti, l'aveva anche tolti con un referendum. E invece, cioè, non sa di vecchia politica questa discussione, manteniamo nella metà oppure no? Mantini? Ma ho l'impressione che il livore contro il Parlamento e la politica e i partiti sia arrivato al punto da far, diciamo, uscire un po' di senno, perché l'intera Europa ha un sistema misto di finanziamento della politica e dei partiti. Quindi adesso siamo tutti americani e abbiamo tutti la politica in mano agli industriali, alle lobby, oppure a virtuosissimi sistemi come quello che usò Obama, ma solo una parte del suo finanziamento, attraverso la rete, il web, e attraverso i cittadini, che certamente è sempre la fonte migliore. Il punto non è giocare a fare gli americani, anche se quel sistema è anch'esso un approccio rispettabile, cioè si può immaginare che i partiti, le organizzazioni politiche, i movimenti comunque denominati siano associazioni assolutamente private e quindi si finanzino assolutamente in modo privato, con qualunque mezzo privato lecito, sì. Però poi anche agiscono da soggetti assolutamente privati, fanno i propri assoluti interessi, non sono soggetti a particolari regole, a particolari controlli. Questo lo abbiamo scoperto, è una visione americana. Questa è una visione all'americana, che è rispettabile, per carità. Quella più europea è quella di partiti politici che esercitano in parte, diciamo, concorrono a esercitare funzioni pubbliche, come è scritto nella Costituzione, che devono avere alcune responsabilità maggiori, devono avere statuti democratici, sì, e questo sì. È l'emendamento su cui e questo è l'emendamento che hanno definito sì, antigrillo. No, ma antigrillo, ma figuriamoci adesso stabilire che un partito politico è obbligato ad avere statuti democratici nella vita interna, nella scelta delle candidature. Ma perché loro è così, Mantini? Loro mettono proprio, hanno il non statuto, cioè capisce che stride. Va bene, guardi, io no, adesso mi perdoni, però sì. Discuto volentieri di Grillo, ma il Movimento 5 Stelle è un movimento radicale di protesta che dice alcune cose anche, diciamo, comprensibili e condivisibili su alcuni temi, l'ambiente, la più legalità, eccetera, però, ecco, e altre cose che sono sì, direi, però voglio dire, no, ma però, scusi Mantini, la cosa che ha colpito molti italiani è che Pizzarotti è stato eletto con 6.000 euro, il sindaco di Mila ci ha detto con 1.500 euro, per carità sarà un'eresia, sarà una bolla che imploderà, però è come dire, ma allora non servono tutti questi soldi per fare politica? Ma il punto è il seguente, benissimo utilizzare la rete, benissimo ridurre i costi, diciamo, della politica, e infatti qui sono stati dimezzati e adesso, diciamo, che i contributi per le spese di campagna elettorali eccetera sono al di sotto, un po' al di sotto della media europea, quindi da questo punto di vista non si può dire nulla, anche con effetto retroattivo, sì. Cioè sulle ultime tranche che e ha dei problemi comunque oggettivi che poi si scaricano su funzionari, su giovani che lavorano a progetto, sulle sedi eccetera, e va bene. Detto ciò, sono molto favorevole a quello che lei dice, cioè fare campagne elettorali molto meno impegnative, costose eccetera, anche ma perché non è questa la verità, cioè adesso se si vuol dire che quella che è stata una fiammata, insomma, io sono favorevole, sono d'accordo, perché la rete, cioè ieri mi sono battuto che si mettessero dei tetti alle campagne elettorali amministrative, che in Italia non c'erano, il che portava, campagne elettorali, mi ricordo quella della Moratti a Milano, però dice sono delle fiammate quelle di Beppe Grillo. No, di Beppe Grillo, ma no, è una fiammata alla rete, perché poi la rete. C'è anche bisogno, no, ma cerchiamo di capirci, c'è anche chi sulla rete non c'è, c'è anche l'anziano che ci sarà ancora, sempre meno, sono d'accordo, ma insomma qualche manifesto, non tanti perché non servono, ma forse da mettere, ci sarà anche qualche spesa fisica, non c'è solo esclusivamente, ma io capisco se... la tendenza, e poi c'è un'attività che è fatta, e che è quello, infatti, di alcune cose stabili, che è quello che conta. No, ma si fermi un attimo, onorevole Mantini. L'attività internazionale di alcuni partiti, l'elaborazione. Vabbè, l'attività tipica delle formazioni politiche. Si fermi un attimo, devo dare le informazioni sul traffico, poi voglio ripartire da qui anche ricoinvolgendo il senatore Rizzi. Cioè, ma è questo proprio. Non è che sono solo nella rete il Movimento 5 Stelle, sono anche tra la gente, incontrano i cittadini. Però lei dice ci vuole invece ancora una forma di politica di. Va bene la rete, ma anche i manifesti, le attività, la classica tradizionale politica che invece sembra essere stata scardinata almeno nel voto ultimo delle amministrative, ma ripartiamo tra poco. Allora, senatore Rizzi, per carità, io non voglio mettere a confronto, come dire, il nuovo contro il vecchio, per carità, lungi da me, poi sono gli italiani che decidono e scelgono, però lei come si pone tra la radicalizzazione del Movimento 5 Stelle a dire non servono soldi, basta, lo abbiamo dimostrato, e Mantini che dice no, non esageriamo, una certa forma di politica ci vuole, tradizionale? Io credo che il buon senso ci faccia dire che in medio stat virtus, la radicalità della politica al Movimento 5 Stelle, per l'amor di Dio, è qualcosa di innovativo, di moderno, ma che va a colpire solo determinate fasce della popolazione, che siano quelle via web o in qualche caso stando in mezzo alla gente parlandoci. Probabilmente serve un livello intermedio per raggiungere anche altri, ma il costo vero della politica io credo che non debba essere riassunto semplicemente nel costo delle campagne elettorali, perché lo sappiamo tutti che bastano poche centinaia o migliaia di euro per 4 volantini e 2 manifesti alle elezioni amministrative. Il costo della politica è l'apparato dei partiti, funzionari. Ma serve davvero? Possono... Cioè, è questo il messaggio forse rivoluzionario che il Movimento 5 Stelle ha lanciato? Servono davvero? Loro dicono: noi ci incontriamo, i meet-up, facciamo delle assemblee popolari e basta quello, cioè su forma quasi volontaria. Ma io credo che non solo serva, ma sia indispensabile. È indispensabile avere una presenza capillare dei partiti, dei movimenti politici sul territorio, e questa è sempre stata la nostra scelta, stare certamente in mezzo alla gente, ma non solo in maniera estemporanea in campagna elettorale, ma con una presenza costante dove i militanti, i sostenitori, i simpatizzanti possono trovarsi in adeguate sedi o sezioni, perché questo è il momento in cui si discute. Il grosso limite del Movimento 5 Stelle è che è un movimento dove non si conoscono uno con l'altro, dove ogni tanto escono dei proclami di Grillo sul web e a cascata qualcuno segue, qualcuno non segue, qualcuno si organizza a modo suo sul territorio. Cioè, ci vorrebbe perché non avendo una dialettica interna e una linea politica ovviamente destinata all'implosione. Ah, lei dice. Sentiamo intanto un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, in questo caso ci ha chiamato all'800240024, Assunta da Pisa. Buongiorno, Assunta. Buongiorno, c'è lì presente, mi pare c'è qualcuno della Camera o del Senato. E c'è un senatore e un rappresentante della Camera, certo. Ok, volevo dire la mia, quanto riguarda il finanziamento ai partiti. Ecco, io guardando la televisione, guardando tutto quello che succede, mi verrebbe la voglia di non stare più sulla terra, perché è una cosa vergognosa. A vedere la gente per televisione in linea diretta che piange che non c'ha un pezzo di pane e una medicina per i figlioli, e tutto sto sfrego di danare nostre. Ecco, chi vuole andare lì, secondo me, si deve finanziare da sé, fa un mutuo, fa quello che vuole, tanto se vince vuole prende in pochi mesi. Cioè i partiti dovrebbero finanziarsi da soli. Come dovrebbero recuperarli dai sostenitori? Li recuperano quando vanno lì, in 448 li recuperano, prendono un mutuo, prendono quello che vogliono, se non hanno soldi non vanno, non si va lì per farsi la villa, palazzo eccetera . E miliardi di quadri e questa, perché è semplicemente vergognoso. Se la gente non va a votare, fa benissimo, perché è una vera vergogna. Le dirò una cosina. Io quando mi sono diplomata, per poter insegnare ho dovuto fare 150 giorni di tirocinio gratis, dalle 8 alle 4 e mezzo. L'ingegnere deve fare il tirocinio, l'avvocato fa il tirocinio. Loro il primo anno di vita dovrebbero, il primo anno di lavoro lo dovrebbero fare gratuitamente. Farsi le ossa come se le fanno. È stata chiarissima. Diplomati e tutte le persone. Grazie, Assunta da Pisa. Senatore Rizzi, devo concludere con lei, ho 30 secondi. Adesso non so se Assunta da Pisa poi riassuma uno spaccato e quanto profondo dell'elettorato medio italiano. Però che risposte date voi partiti tradizionali all'Assunta da Pisa, a chi interviene e dice, ed è, io credo, abbastanza diffusa al voto del Movimento 5 Stelle nella conferma di questa sensazione? Cioè, che risposte risposte date? Sempre le solite risposte? Faremo, cambieremo, oppure delle risposte concrete? No, per quanto ci riguarda, risposte concrete ne abbiamo già date, perché prima ancora che venisse fuori la proposta del dimezzamento o di altre soluzioni sul finanziamento pubblico, noi abbiamo dichiarato pubblicamente di rinunciare alla tranche di luglio del finanziamento e di devolverlo in beneficenza. In questo caso mi sembra che ci sia un'ottima occasione, purtroppo, che ci sia presentata, che è il terremoto in Emilia, e quindi potrebbe essere una destinazione molto utile. Sì. Di questo 50% che viene risparmiato dagli altri e del 100% per quanto ci riguarda. Però tornando un attimino con una minima riflessione sul discorso della gratuità della politica o dell'autofinanziamento, sì, della politica, noi siamo d'accordissimo, lo abbiamo sempre fatto, come dicevo prima, l'autofinanziamento, però non dobbiamo incorrere nel rischio opposto che la politica diventi oligarchia solo dei Berlusconi, dei Montezemolo o di qualcun altro. No, ma questo c'è, cioè, la politica dei ricchi, questo no. Vi devo fermare, grazie al senatore Rizzi della Lega e all'onorevole Mantini dell'UDC, e ci ritroviamo lunedì mattina. Agreco, freddo e energia a noleggio. www.agreco.it con la K. Vi ha presentato 24 mattino.